lasciamo le gambe al suolo. Lasciamo le braccia pesanti sulle gambe. Spostiamo il peso del corpo un po' più indietro, verso la parte posteriore del bacino, in modo da appiattire un po' più la regione lombare. E solleviamo un po' lo sterno, reclinando un po' il mento verso la gola, sentendo il torace aperto e le spalle che cadono indietro. Sentiamo il collo morbido, allungato, la colonna morbida, slanciata. Sensazione di apertura nella regione del cuore, del torace. Morbido lo sguardo dietro le palpebre chiuse, le labbra, tutta l'espressione del viso. Siamo consapevoli dell'andare e venire del respiro. Sentiamo l'aria fresca entrare, l'aria calda umida uscire. Rimaniamo nella sensazione di tutto il corpo respirando, come se fossimo appesi per un filo dalla sommità della testa e nello stesso tempo sentendo bene stabile la base d'appoggio al pavimento, ben lasciata, abbandonata. Approfondiamo la sensazione di tutto il corpo, approfondiamo la sensazione del respiro, morbidi e aperti, indifesi. A partire dalla prossima respirazione, eseguiamo un suono tutti insieme. La vocale O nasalizzata, ciascuno esegue il proprio ritmo. Ogni volta che abbiamo finito, svuotiamo a fondo i polmoni per far uscire l'aria residua, rientrando a fondo l'addome. Inalando bene, riempendo bene. Sollevando bene lo sterno con la muscolatura anteriore del collo e l'esalazione delicata, il suono delicato, una vibrazione delicata come un massaggio sottile che vitalizza, che risveglia, che distende, che apre tutto il nostro corpo, in ogni parte, esternamente e internamente, ogni tipo di tessuto. Sentiamo la vibrazione col corpo, la nostra e l'altrui. Esaliamo tutti, svuotiamo a fondo, inaliamo, insieme. Lasciamo sprofondare la schiena indietro, rotolando indietro il bacino, lasciando cadere la testa, la nuca, le spalle in avanti. Rimaniamo in questa posizione, rilasciando bene la testa e la nuca, sentendo la pesantezza delle braccia, delle gambe. Respiro nell'addome, sentiamo lo stiramento posteriore, sentiamo la colonna allungarsi posteriormente e le scapole che si allargano, la linea orizzontale da spalla a spalla che si allunga. Sentiamo la pesantezza della testa che aiuta questo allungamento verticale e orizzontale. Un respiro massaggia l'addome. Rilasciamo le gambe. pesanti al suolo, le braccia. Totale abbandono alla pesantezza delle gambe, delle braccia, della testa, del corpo. Movimento lentissimo di rotolamento al suolo del bacino in avanti, avanzando l'ombelico. Impiniamo le vertebre una volta e sviluppiamo un'apertura anteriore, dal cuore fino al torace, alle spalle e al mento. Manteniamo questa apertura, sentendola sia nella dimensione verticale, sia nella dimensione orizzontale, da spalla a spalla, nella zona del cuore. Manteniamo l'apertura respirando, la sensazione che il collo esce, si sfida dal torace, rovesciandosi indietro. Manteniamo l'attenzione nella regione del cuore che sentiamo aperta e espansa. E il respiro che va e che viene. Rilasciamo le gambe, rilasciamo completamente le braccia. E con un movimento lentissimo, respirando normalmente, ritorniamo indietro con l'ombelico, arrotolando il bacino verso il sacro, lasciando cadere di nuovo le spalle, il collo, la testa in avanti, pesantemente. Rilasciamo di nuovo completamente l'alto del tronco, cadere in avanti. Sentiamo lo stiramento posteriore della colonna, verticale e orizzontale all'altezza del scapolo e delle spalle. Respiro ampio, svuotando a fondo l'addome ogni volta. Usiamo il respiro per approfondire la sensazione di abbandono, di riposo ad ogni esalazione. Allunghiamo il respiro intervenendo attivamente solo nella fase terminale dell'esalazione o dell'inalazione e dell'inalazione. Inalando ritorniamo in avanti, aprendo di nuovo con tempo completamente tutta la linea verticale, frontale e orizzontale all'altezza del cuore e delle spalle. Sentiamoci veramente espansi respirando. Rilasciamo le gambe, rilasciamo le braccia. Sentiamo il collo che si allunga prima di piegarsi indietro e il torace che si espande fino a occupare tutto lo spazio davanti. Le spalle ruotano e cadono indietro, le braccia sono pesanti. Esalando, lasciamo sprofondare la schiena indietro. E andiamo a ritrovare questa sensazione piacevole dello stiramento posteriore, verticale dal coccige alla nuca, alla regione occipitale, orizzontale da una spalla all'altra, allargando le scapole, distendendo la regione delle scapole, tutta la schiena. Un respiro ampio e profondo, rientrando a fondo ogni volta. Inalando ritorniamo in avanti, ritrovando questa grande sensazione di apertura orizzontale e verticale insieme. Sentiamo le braccia e le gambe completamente abbandonate. Esalando, ritorniamo indietro. Svuotando a fondo, ritrovando la sensazione di completo abbandono, completo allungamento e apertura posteriore. Rientriamo a fondo l'addome. Inalando, ritorniamo in avanti. Sentiamo tutta la fluidità del movimento e arriviamo all'apertura con delicatezza e progressione. Rimaniamo in sospensione a polmoni pieni, sentendo questa grande apertura verticale e orizzontale insieme. Allunghiamo bene il collo davanti e esalando e ritorniamo indietro. E impostiamo un movimento che segue adesso il nostro ritmo respiratorio più regolare, tranquillo. Esalando andiamo indietro, inalando ritorniamo in avanti. Movimento fluido, senza scatti. Concentrati all'80% sul respiro. Che il corpo segue il ritmo respiratorio. Come se scivolassimo su un fluido. Sentiamo un movimento delicato, lento, consapevole, presente, come un gesto sacrale. E andiamo ogni volta a cercare questa sensazione di abbandono, apertura, distensione posteriore, nella quale ci installiamo piacevolmente, qualche istante, polmoni vuoti, e andiamo a cercare questa sensazione di apertura, espansione anteriore, nella quale ci installiamo piacevolmente, qualche istante, a polmoni vuoti, godendo ogni volta dell'espansione anteriore, della estensione, abbandono posteriore. E respiriamo piacevolmente, ciascuno a proprio ritmo. Possiamo fare il respiro in ujjayi, se vogliamo, concentrandoci veramente tanto sul suono prodotto del respiro e su questa piacevole sensazione di fluidità del movimento, come se fosse un movimento continuo, senza scatti, senza interruzioni. Anche quando siamo fermi, il respiro mantiene la fluidità del movimento. L'inversione è come il respiro circolare, sia nel respiro che nel corpo. Sentiamo questa massima mobilità del bacino e andiamo a cercarla. Riempiamo bene l'addome, tendendo l'addome fra l'ombelico e il pube come una pelle di tamburo. Sentiamo che si gonfia ogni volta al massimo, in coordinazione totale con questo movimento. Sentiamo la totale riunificazione di respiro e movimento e presenza mentale, dedicata, aperta, rispettosa. Quando vogliamo possiamo anche fare dei movimenti, invece che solo avanti e indietro, anche delle mezze lune laterali. Ogni volta inalando andiamo in avanti, ogni volta esalando andiamo indietro. avanziamo e ritorniamo da una parte, avanziamo e ritorniamo dall'altra, alternando, sentendo le sensazioni all'interno del bacino, del respiro. Rilasciando bene le gambe, sentendo come questo movimento ci permette di rilasciare a fondo le gambe, le braccia, tutto il collo, la schiena. E il movimento è un movimento che parte dal bacino. L'ombelico fa dei cerchi orizzontali sempre più ampi, mobilizzando il bacino rispetto alle gambe completamente. Se abbiamo difficoltà a mantenere la posizione, non esitiamo a cambiarla, mettendoci in ginocchio, ma continuiamo a fare il movimento. Adesso come dei grandi cerchi anche sull'appoggio e le spalle si rilascia. Con il movimento laterale anche la testa inizia a ruotare da un lato, dall'altro, giusto per riequilibrare un po' il peso, mantenere un equilibrio più centrato. Con il naso che va ora verso la spalla, ora verso l'altra, opposto al bacino. Sentiamo questo svilupparsi di questa apertura laterale, oltre che quella posteriore frontale, quando il bacino va lateralmente. Come se mettessimo spazio fra le costole, da un lato e dall'altro ruotare. E possiamo per fare questo sollevare anche le spalle, indipendenti l'una dall'altra, o sollevare i gomiti. E lentamente lasciamo partire anche le braccia, come se volessimo liberarci di una corazza. E con i gomiti andiamo a esplorare tutte le possibilità di movimento, come se i gomiti sfiorassero una sfera di spazio tutta in volo. Il corpo si muove partendo sempre da questo movimento del bacino che avanza inalando, al retro, esalando. Niente di progettato, giusto sono le sensazioni che ci guidano. E le braccia iniziano anche a distendersi, come se sentissimo le braccia portate dall'aria. Sentiamo l'aria fra le dita delle mani, sui polsi, le braccia, come se accarezzassimo delicatamente tutto lo spazio intorno, come se la sfera ancora più rarefatta si espande, andiamo a sfiorarne con la punta delle dita delle mani tutto intorno. Quindi il movimento del bacino è l'origine di ogni nostro movimento. Esalando andiamo indietro, inalando in avanti. Le scapole hanno come piacere di appoggiarsi indietro, come se il corpo si appoggiasse su un liquido che lo sostiene, come se ci rotolassimo su dei cuscini tutto intorno che sostengono il nostro corpo. E sentiamo il contatto della pelle con questi cuscini tutto intorno, sui fianchi, sull'addome, sul petto, sullo sterno, sulle costole, sulle clavicole dietro, sulle scapole, sulla schiena, anche sulle ascelle. il movimento è delicato. La sensazione di rotolare tutto intorno col corpo, veramente sostenuti dall'aria, sostenuti da dei cuscini tutto intorno. Coordiniamo bene il respiro fra esalazione indietro dell'ombelico e inalando in avanti. È la cosa principale questo movimento del bacino. Se perdiamo il movimento del bacino, perdiamo la presenza, perdiamo la naturalezza, perdiamo la fluidità. Ogni volta inalando gonfiamo bene l'addome sotto l'ombelico, come se volessimo ogni volta inalando appoggiare l'ombelico al suolo davanti e ogni volta esalando appoggiare il sacro al pavimento dietro. Apriamo, ogni volta andando a cercare la linea orizzontale, verticale, le braccia. Sentiamo come il movimento delle spalle e delle braccia ci aiuta ad aprirci e a svuotarci nel respiro. Viviamo i gesti con totale presenza, sentendo anche come in ogni gesto c'è un'emozione, c'è un'immagine, c'è un simbolo. Viviamo, aprendoci con la sensibilità a tutta questa invocazione, potenziale evocativo di ogni gesto, lasciando fluire le emozioni, osservandole trasformarsi una nell'altra, come spettatori. Il gesto può essere variato in velocità, se ne sentiamo la necessità possiamo anche fermarci, rallentare o accelerare, come vogliamo. Manteniamo l'oscillazione del bacino avanti e indietro, la rotazione. Andiamo a sentire il collo che si appoggia su questi cuscini tutto intorno, che si allunga. Le braccia sono indipendenti l'una dall'altra, nessuna organizzazione mentale, la mente è solo un soggetto che osserva, che sente, e il gesto parte dal bacino, parte dalle sensazioni, il corpo che va e noi ci limitiamo ad osservare, nessun disegno, nessun progetto. Ruotiamo il collo in tutte le direzioni possibili, le spalle, andiamo a esplorare tutte le possibilità di movimento liberamente. Lasciamoci portare dalle sensazioni, dalla saggezza del nostro corpo, dalla possibile libertà del nostro corpo. Lasciamo totalmente, troviamo la spazialità come se fossimo un'alga all'interno di una corrente marina, una volta di fumo che si muove nell'aria. Sentiamo tutta questa libertà, questa spazialità. Possiamo immaginare che in realtà è lo spazio che ci tira, come se il nostro corpo non fosse il corpo, ma il negativo del corpo, dello spazio. E lo spazio ci tira nelle varie parti. Noi siamo il vuoto intorno al nostro corpo, che tira le scapole, tira i gomiti, tira il bacino, lo venico, il mento, la nuca, gli orecchi. Fluidità, grande morbidità nel respiro. Ci lasciamo anche al suono, andando a sperimentare il contatto col suono in tutte le direzioni, negli appoggi, sull'esterno delle braccia, sulle scapole, sulla nuca. Ci lasciamo anche rotolare liberamente e andiamo con le gambe a esplorare questa sfera tutta intorno. Sfiorando col dorso dei piedi, con l'esterno, l'interno dei piedi, tutto lo spazio intorno, fino a trovare il contatto di questa sfera col pavimento, col dorso, con delle ginocchia, le cosce, l'esterno. Totalmente andiamo a esplorare le possibilità di movimento della nostra gamba, stirandoci in tutte le direzioni opposte possibili. Rimanendo sempre consapevoli di questa respirazione piacevole, fluida. Sperimentiamo gli appoggi al suono e tutti gli allungamenti possibili della schiena, meditazione, riflessione, gli appoggi dei piedi, delle mani. Sentendo cosa succede passando dall'appoggio sulle mani all'appoggio sulle gambe, articolando tutte le membra rispetto al tronco in tutti i modi possibili, come una sperimentazione di tutte le possibilità di movimento che lasciamo emergere più spontaneamente possibile. Progressivamente sugli appoggi andiamo a cercare la stabilità del suolo sotto di noi. Su questa stabilità certamente possiamo anche andare a cercare il sollevamento della nostra vestita. E quando siamo sollevati, prendendoci tutto il tempo che vogliamo, ricordandoci che l'esercizio che io uso è solo un'indicazione. Se sentite di farlo diversamente in qualunque momento lo potete fare in piedi, se siete in piedi le gambe sono ben divaricate, prendete una bella larghezza sulle gambe e continuate a fare prima di ogni altra cosa questo movimento del bacino, esalando, retroversione del bacino, inalando, ogni tipo avanti, esalando, movimento. È un movimento estremamente sensuale, delicato. La retroversione, come vi dico avanti, il coccige dietro, inalando, la retroversione, il coccige avanti, come vi dico avanti. E il movimento è libero, come se disegnassimo dei cerchi orizzontali, degli otto, col coccio. I gomiti, le spalle vanno a cercare la mobilità intorno. Possiamo anche toccare il corpo, sentirne l'energia vibrante, passando, sfiorando con le mani intorno. Sentiamo come le mani sono radianti, i piedi sono radianti, e l'energia dei piedi sfonda il suolo, l'energia delle mani disegna dei cerchi luminosi tutto intorno. E la sfera è ancora più grande, parte dal basso e ancora grande presenza ad ogni gesto. Osserviamo la tendenza a leggerti automatici e ripetitivi, giusto? Come perdiamo il movimento del bacino, come perdiamo la respirazione nell'addome, ci sentiamo marionette, ci sentiamo meccanici. Il corpo perde la vita, perde il vissuto interno, sentito. Spingiamo bene il respiro verso il basso, sentiamoci saldi nella coda del pavimento. Come se un elastico ci tirasse dal perineo verso il pavimento e un elastico ci tirasse dalla sommità della testa verso il soffitto. Ci sentiamo completamente liberi perché siamo ancorati da questi due elastici. E veramente la sensazione di grande leggerezza, di grande spazialità, di grande apertura, di grande libertà. Possiamo anche muoverci camminando, camminare è più difficile, presuppone coordinamento inalando e carichiamo sul gambo, esalando scarichiamo sull'altro. Questa danza si può fare anche in due, giocando a sentire l'energia del compagno senza toccarci, giusto ad occhi socchiusi, se possiamo anche ad occhi chiusi, ed è veramente una esperienza bellissima da provare. La sensazione è quella di stare facendo l'amore con lo spazio intorno. E quando vogliamo, ci mettiamo seduti in una posizione comoda, consapevoli del respiro, totalmente rilasciati, in ascolto delle sensazioni interne. Concentriamoci, aperti nel respiro e nella sensazione di tutto il corpo. Nella immobilità apparente del corpo. Portiamo il centro del nostro essere nella regione del cuore. Possiamo visualizzare in questa regione una nebbiolina, come un vapore acqueo, per sentirne il volume, come se tutto il volume della regione del cuore fosse riempito di questa nebbiolina, come una sfera. Sentiamo tutto il volume di questa sfera nella regione del cuore. E più la sentiamo, più espandiamo anche questa sfera anche all'esterno, all'intorno del nostro corpo. Mantenendo la sensazione del volume interno e del volume intorno. Fatto di questa nebbiolina. Nel centro osserviamo un rubino rosso che risplende. E vediamo il rubino, sentiamo il volume, osserviamo la nebbiolina illuminata dai bagliori rossi di questo rubino tutto intorno. Sentiamo il volume, osserviamo il rubino. Nel centro di questo rubino, una piccola danzatrice o un danzatore, in continuo, gioioso, vitale movimento. È la gioia di questa danza che origina la luce tutto intorno, che si riflette sul rubino e su tutta la nebbiolina intorno, nel volume interno e intorno del torace. Come una radiazione gioiosa, amorevole, tutta intorno. spostiamo l'attenzione sul respiro, sulla sensazione di tutto il corpo. E facciamo delicatamente un Kapalabhati, molto delicato, prendendoci tutto il tempo per l'inalazione spontanea, l'esalazione delicata e forzata. Vi faccio un po' vedere. L'attenzione è soprattutto concentrata sul ritmo, piuttosto che sulla intensità del respiro. Ti, ti, ti, ti, ti, come una goccia cade su una pietra con costanza e durata. Quindi cerchiamo di fare il più a lungo possibile questo respiro, quindi sforzandoci il meno possibile, mantenendo la costanza del respiro. Dopo che l'abbiamo fatto tanto tempo da perdere il ritmo, esaliamo a fondo, inaliamo a fondo, facciamo un grande respiro, premiamo il mento verso la gola, contrazione delle radici, teniamo più a lungo possibile l'aria ferma nei polmoni, rientrando l'addome, esalando, immaginiamo l'aria uscire dalla sommità della testa, distendendo lo spazio dietro la fronte, lo spazio tra le sopracciglia, aprendo verso la leggerezza, la luminosità nell'alto del corpo. Ripeto, serie di esalazioni attive e inalazioni passive, lente ma costanti, isocrono, più lunga possibile. Quando perdiamo il tempo, grande inalazione, trattenuta più a lungo possibile con i tre banda, una banda, diana banda, jalandana banda, la gola. Esalazione lentissima, l'aria esce dalla fontanella. Ognuno esegue a proprio ritmo. Osservate me e poi iniziate. Ognuno inizia a fare il movimento, molto delicatamente, rientrando l'addome attivamente. Lo sguardo è concentrato o sulla sommità della testa o nello spazio tra le sopracciglia. A nostro piacimento, uno dei due. se abbiamo finito, ricominciamo. Ogni volta l'esalazione dalla sommità della testa, sensazione di luminosità, di apertura, di leggerezza. Tutto il corpo rilascia. Normalmente questo tipo di esercizio si fa dai 20 ai 40 minuti consecutivi, per circa 1000-1500 respirazioni. Quando abbiamo terminato l'ultima volta, sprofondiamo la schiena indietro, lasciando cadere questo. Distendiamo le gambe in avanti, facciamo le mani indietro, massaggiamo appena vicino, svuotando i piedi. Ruotando anche il corpo, intrecciamo le dita delle mani davanti, appoggiamo la testa tra le mani, inalando solleviamo la gamba destra, tendiamo il ginocchio, tiriamo bene il piede a martello, solleviamo il tallone il più possibile, poi rilasciamo la gamba, esalando scuotiamo vigorosamente, appoggiamo, inalando solleviamo l'altra gamba, solleviamo bene, tendiamo il ginocchio, tiriamo il piede a martello al massimo, esalando solleviamo, scuotiamo. Facciamo almeno due volte per parte. E ci mettiamo nella posizione fetale, con la fronte a terra, le braccia dietro. Con la mano sinistra prendiamo il polso destro, fronte a terra. Rilasciamo le braccia. Sentiamo il contatto fra corpo e pavimento. Sentiamo il contatto delle varie parti del corpo tra di loro e ci rilasciamo nella sensazione di contatto delle varie parti del corpo tra di loro e con il pavimento. Rilasciamo le braccia, la linea delle spalle, la nuca, lo spazio tra le scapole. Una sola tensione nel nostro corpo è la presa del polso destro con la mano sinistra. Le braccia sono pesanti, le spalle pesanti. Il tronco pesante sulle cosce, le cosce pesanti sui polpacci. Tutto il tronco scarica il peso attraverso la superficie di contatto, la testa, le gambe, i piedi. Come se fossimo sprofondanti nel pavimento. Come se ogni parte del corpo sprofondasse sulla sottostante, come se il corpo si allargasse verso il pavimento, si sciogliesse dentro il corpo. E il respiro massaggia la colonna, fluido, delicato, piacevole. Appoggiamo le braccia in avanti con l'avambraccio completamente al suolo. La fronte a terra. Inalando, prendiamo la posizione della piccola sfinge. Manteniamo la posizione molto delicatamente, mantenendo tutta la delicatezza su cui abbiamo lavorato, mantenendo la sensazione di questa nebbiolina nella regione del torace, del rubino al centro di questo spazio. Tutto il corpo morbido, aperto, e il respiro piacevole. Nessun sforzo, giusto una piacevole sensazione di stiramento, appena accennato, e la respirazione ampia e piacevole. Aprendo le ginocchia ci mettiamo a quattro zampe, contraendo i glutei, spingiamo le mani, prendiamo la posizione del gatto che si stira. E anche in questo caso giusto schizziamo la posizione, sollevando l'ombelico, premendo il mento verso la gola, contraendo i glutei. Osserviamo la spinta delle mani, sentiamo lo stiramento piacevole posteriore. La sensazione di essere presi come per una maniglia sulla schiena e tirati verso l'alto, come se il corpo tenesse la posizione senza nessun sforzo, passivamente fosse appeso per una maniglia nella regione lombare e ciondolasse. Lasciamo cadere l'ombelico, ruotando il bacino. Apriamo il torace, lasciamo uscire il collo dal tronco, e ruotiamo verso l'alto. La sensazione di essere presi per il mento e tirati verso l'alto, presi per il codice e tirati verso l'alto, come se fossimo appesi per questi due punti, sul mento e alla base della colonna, e tutto il corpo fosse piacevolmente appeso in questo modo. La respiriamo. Senza nessuna fatica teniamo la posizione, con grande apertura sulla parte anteriore del corpo. Rientriamo gli arcuci. Sentiamo lo stiramento piacevole. Spingiamo il cane che si stira. Le ginocchia sono piegate, spingiamo bene con le mani. Apertura del torace, apertura delle ascelle. Il collo è morbido, le spalle morbide. La sensazione di essere presi per il sacro e tirati verso l'alto, come se tutto il corpo ancora una volta fosse lì abbandonato, solo tirare diagonalmente indietro. Solleviamo la gamba destra alla verticale e ancora immaginiamo di essere tirati per il tallone verso l'alto, respirando ampiamente, come se il corpo fosse appeso senza alcun sforzo. Esalando ritorniamo il piede a terra, pieghiamo le ginocchia e il piede destro passa in avanti alla linea delle mani, appoggiato al corpo. Chiudiamo il ginocchio in avanti, avvicinando il bacino più possibile al pavimento. E ci stiriamo piacevolmente, respirando. Possiamo, se vogliamo, appoggiare i gomiti all'interno del piede e rilasciare la testa andare verso il pavimento. Ci riposiamo completamente mantenendo la posizione, quello che è possibile. Ritorniamo nella posizione precedente con una mano per lato al tallone. Sentiamo la spinta delle gambe e immaginiamo di essere spinti con i gomiti indietro e tirati verso l'alto. Respiriamo. Sensazione di spalle della cassa torace piacevolmente in alto. I gomiti sono tirati indietro e le gambe sono ben accoppiate. Di nuovo ci distendiamo e senza spostare le mani tendiamo il ginocchio, tiriamo il piede, avanziamo l'obelico, guardiamo il soffitto. Immaginiamo stavolta di tenere il ginocchio ben teso e di essere agganciati per il momento e tirati verso l'alto, piacevolmente, come da una carezza. Ritorniamo in avanti, cinturiamo la tibia e prendiamo il piede sotto, appoggiamoli al costole laterali sulla coscia in modo da dare stabilità e appoggio al torace. Tendiamo la gamba dietro, tendiamo il gluteo dietro, il sinistro, e spostiamo tutto il peso del corpo sui due piedi. Tendiamo il braccio sul prolungamento del tronco e della gamba verso la gola. La sensazione di essere tirati per la punta del dito della mano per il tallone in direzione opposta. E cogliamo l'occasione per espandere bene il respiro longitudinalmente, sentendoci allungare piacevolmente. Morbido il viso, morbido l'espressione, senza alcun sforzo, giusto la sensazione piacevole di essere allungati passivamente. Appoggiamo la mano. La spostiamo un po' più larga per mantenere meglio l'equilibrio. Apriamo l'altra mano e la guardiamo salire verso il soffitto. Sensazione di andare a toccare il soffitto in alto, di essere tirati per la mano, di poter ruotare la testa all'infinito verso destra. Ritorniamo con la mano a terra. Scivoliamo con la gamba, tenendo la tibia più possibile in avanti e ortogonale, il corpo, la fronte, tornando sul letto. Completamente abbandonato. Respiro. Senza spostare le mani da dove sono. Giusto mantenendo l'appoggio delle mani dove sono, tutto il corpo rilasciato. Sentiamo il respiro, la sensazione che il corpo si scioglie, si allarga al pavimento. Il respiro massaggia le vene, la rotazione d'asse del femore, piacevole. Il respiro profondo nell'addome, che massaggia gli organi interni. Spingiamo con le mani, espiriamo con le mani, come se avessimo appoggiato molto le parti mi sembra di essere tirati per il coraggio verso l'avanti, risalando. Riprendiamo di nuovo il canto, sensazione di nuovo di spingere il sacro, di essere tirati per il sacro verso l'alto e indietro. Con i glutei contratti, senza spostare le mani, andiamo avanti. Teniamo bene, tolgo la parte. E di nuovo ci sentiamo tirati nel mezzo d'alto indietro. Spalle basse e arretrate. Appoggiamo le ginocchia. La fronte a terra. Respiro di riposo. Sentiamo il contatto col pavimento e il respiro. Lasciamo il respiro perdere ogni affanno. La sensazione è che il corpo sprofonda nel pavimento, trovandosi in una come uno sprofondamento senza fondo, che si trasforma come una sensazione di leggerezza, di volo, di spazio. Rotolando sulla testa, senza farla scivolare, solleviamo il bacino dai talloni avanzandolo verso l'avanti, fino a prendere la posizione della lepre, con il mento che preme verso la fossetta jugulare. Rilasciamo la nuca, rilasciamo le spalle, pigiamo la punta della lingua verso il palato molle all'indietro. Sentiamo l'allungamento della nuca passivo e respiriamo piacevolmente, distinguendoci. In questa posizione la respirazione toracica è impedita dalla pressione sullo sterno del mento, quindi solo la respirazione addominale è possibile, è una posizione di rovescio. Sentiamo il piacere di respirare liberi nell'addome. Lo stiramento della nuca. Ritorniamo seduti sui talloni. Con la fronte a terra prendiamo con la mano destra e la mano sinistra il polso destro. Rilasciamo le braccia, rilasciamo le spalle. Rilasciamoci nel contatto reciproco delle varie parti del corpo tra di noi e nel respiro. Stiamo sperimentando una forma di pratica yoga esattamente opposta a quello che è la pratica corrente che si trova in giro. Nel tantrismo, infatti, prima si cerca il risveglio, poi si inizia la pratica del Hatha Yoga, il contrario esatto di quello che si pensa. Allora, tutta la nostra lavoro è libero da intenzione e la coscienza esegue le posizioni con un'attitudine di coscienza immacolata, in cui viviamo le sensazioni pure con la spazialità e andiamo ad assentire nel corpo quello che c'è liberamente, senza alcuna costrizione, programmazione, eccetera. Come se in realtà da una parte leggessimo nel corpo più liberamente e dall'altra contattassimo nell'unità corpo-mente questa libertà interiore e la potessimo comunicare in tutta la nostra corporeità. Integrato. due modi profondamente diversi di lavorare con lo yoga. Appoggiamo le mani davanti e ricompiamo tutta la serie. Piccola sfinge, trazione leggera sui gomiti, respiro ampio, mento verso la gola, allungando la nuca. Sensazione di essere tirati per il sacro, tirati per la sommità della testa, in due direzioni opposte. I glutei appoggiano sui talloni, torso e piede terra, mento verso la gola, la nuca dentro, dritto. I gomiti tirano verso le ginocchia. Sentiamo spazio fra le vertebre. Possiamo anche arrotolare il bacino avanzando il pube e arretrando l'ombelico verso l'alto, in modo da creare una doppia spirale alla colonna che stira ancora più. La sensazione dello stiramento della colonna. Esalando ci mettiamo nel gatto che si stira. Sentiamoci appesi per le reni, come da una maniglia lungo la colonna, e tutto il corpo rilasciato in basso, passivamente e piacevolmente, mento verso la gola. Spingiamo bene con le braccia, come se volessimo allontanare le ginocchia dalle gambe, viceversa. Sentiamo la sensazione di essere appesi in una maniglia, nella regione lombare. Passiamo l'ombelico, ruotiamo il bacino, solleviamo le menti. Ci sentiamo presi dal coccige, presi dal mento e sollevati per questi due punti. E il corpo si apre anteriormente, piacevolmente, il respiro si apre. Ci apriamo a tutto lo spazio anteriore, respirando. Rientriamo gli arci, sentendo il piacere di stirare la parte inferiore del piede. Spingendo con le mani, solleviamo le ginocchia, prendiamo il cane che si stira. La sensazione di essere tirati dal sacro verso l'alto e indietro. Le ascelle si aprono, il torace si apre, il respiro diventa ampio e piacevole. Questa sensazione di apertura, di essere tirati indietro, si accentua sollevando il tallone sinistro in alto indietro. Immaginiamo di essere presi per il tallone e tirati in alto e appesi a questo tallone, respirando piacevolmente, totalmente abbandonati. Isolando, slanciamo la gamba in avanti, il piede oltre la linea del mare. Lo spostiamo finché il tallone non supera veramente la linea delle mani. E ci rilasciamo appoggiando il bacino verso il pavimento più possibile. Respiriamo. Possiamo spostare le mani tutte all'interno della gamba sinistra, appoggiare gli avambracci, rilasciare totalmente il tronco, portando la fronte verso i polsi. Respiriamo con i gomiti verso il pavimento. Spingendo con le mani, ritorniamo alla posizione precedente. Ritroviamo bene la spinta del bacino verso il pavimento. Sensazione piacevole, come se andassimo ad appoggiare il perineo al pavimento, come se ci fosse un elastico che tira il bacino verso il pavimento e noi ci lasciamo andare semplicemente, spingendo sulle gambe, specialmente la gamba sinistra, solleviamo il tronco, mettiamo le mani nella posizione della palma e sentiamo i gomiti tirare indietro. I due lati costali si aprono. La sensazione è che il torace si espande ad occupare tutto lo spazio anteriore. Grande apertura, respiro piacevole e sentiamo questa sensazione dell'apertura anteriore del corpo. Esalando. quando ritorniamo in avanti, appoggiamo le mani ai lati del piede. Ci riposiamo tranquillamente, riportando il bacino verso il pavimento. La sensazione è che un elastico tira il bacino verso il pavimento. Arretrando il bacino, distendiamo la gamba sinistra e siamo presi per il mento e tirati verso il soffitto. Mentre avanziamo l'ombelico e tendiamo il ginocchio, come appesi per il mento, per il collo. E il respiro, l'apertura di nuovo anteriore. La gamba è ben distesa, gamba sinistra ben distesa. Ritorniamo in avanti, cinturiamo il piede, la tibia, appoggiamo lateralmente il tronco, sentiamo solida questa presa, connessi, sentiamo bene il piede aperto in appoggio al pavimento, i due piedi, tendiamo il ginocchio posteriore, tendiamo il gluteo posteriore, sentiamo bene l'appoggio che si sposta da tre punti a due punti delle gambe, distendiamo il braccio. E sentiamo il tallone che spinge indietro, le dita della mano che sfiora il pavimento da in su, la parete davanti. Ci sentiamo tirare per il tallone e per la mano. Il mento verso la gola, il collo arretrato dritto. La sensazione di essere tirati per il tallone e la mano. Appoggiamo la mano a terra, sotto la verticale spalla, oppure ancora un po' più esterna. E liberiamo la rotazione verso l'alto. Sentiamoci tirati verso il soffitto. Il collo ruota senza incontrare la testa, ruota senza incontrare alcuna tensione del corpo. Ritorno. Appoggiamo. Scivoliamo con il piede in avanti e la fronte qua. Ci rilassiamo totalmente. Più possibile il bacino parallelo al pavimento, senza mandarlo laterale. Più possibile la tibia parallela al capo. Respiriamo. Rilasciamo il spalle, rilasciamo la mano, rilasciamo la coscia. Respiro profondo nella testa. Scegliamoci un po' di spingendo con le braccia, spingendo il cuore, spingendo il cuore, mentre la riparola sta a parte, esalando il tempo. Inalando le mani, la grande sfida, mentre il tronco. Appoggiamo le ginocchia, appoggiamo la fronte indietro. Respiriamo nella posizione, rilassandoci bene. I talloni e i glutei a contatto tra di loro, senza far scivolare la testa, rotolamento in avanti, fino a portare il mento a premere nella fossetta jugulare. Manteniamo questa posizione distendendo la nuca, distendendo le spalle, rilasciando le braccia, tutto l'alto del tronco. Respiro profondo dall'addome, massaggio degli organi interni, le reni, il bacino, tutto l'addome. Il ritorno così lento da sembrare un movimento impercettibile da un osservatore esterno. ritornando seduti sui talloni con la fronte a terra e il polso sinistro che prende il destro. Movimento più lento possibile. Rilasciamo le braccia, appoggiamo le mani ai lati delle ginocchia. Ancora con un movimento ultra rallentato, rotoliamo indietro il bacino mantenendo l'appoggio sui talloni, mantenendo la testa, la nuca, le spalle, tutto l'alto del tronco completamente rilasciato, sprofondiamo l'ombelico indietro e rimaniamo rilasciati, cadenti con l'alto del tronco, la testa, le spalle in avanti, con tutto il peso del corpo verso il dietro, verso i piedi, scaricando totalmente le ginocchia dal peso. Arretriamo veramente indietro, molto, fino a trovarci in una posizione completamente arretrata, quasi a sollevare le ginocchia da terra. Lentamente ritorniamo in avanti, ruotando il bacino, avanzando l'ombelico e più lentamente possibile, una vertebra dopo l'altra, verticalizziamo la regione lombare, la regione dorsale. Apriamo bene il petto, ruotando la spalla un po' indietro. Solleviamo il collo, la testa, morbida lo sguardo, il viso, la bocca. E rimaniamo con le mani sulle gambe, sensibili alla regione del cuore. Cerchiamo di sentire questa regione in tutto il volume, come se potessimo sentire una nebbiolina, questo color grigio fumo. Vapore acqueo, in forma di sfera. Sentiamo il volume di questa sfera nella regione del cuore. Percepiamo il volume usando l'immagine da nebbiolina. Portiamoci al centro di questa sfera, visualizzandovi un rubino. E al centro del rubino, una danzatrice, un danzatore. Una danza vitale, gioiosa. È l'energia incessante, senza fine, di questa danza che illumina lo spazio interno del rubino, come tanti raggi tutto intorno, che escono di colore rosso su tutto questo volume sferico di questa nebbiolina, interna e intorno. respirando identifichiamoci con questo personaggio danzante, vivendo tutta questa sfericità intorno, radiante. È una sensazione di gioiosa amorevolezza che irradia tutto intorno. Lasciamo le gambe, lasciamo le braccia, lasciamo tutto il corpo, sentiamo solo questa radianza tutto intorno. Lasciamo sprofondare la schiena indietro, distendiamo le gambe, e ci mettiamo qualche istante di stesso. Giusto, rimaniamo nella sensazione di tutto il corpo e respirando, consapevoli del respiro naturale, il contatto del pavimento, il contatto con l'aria, con gli abiti, le sensazioni respiratorie dirette e indirette, il contatto delle varie parti del corpo con l'uno, all'esterno e all'interno, in tutto il volume del corpo. Totale presenza del respiro naturale, le sensazioni in tutto il corpo. Poggiamo le mani sulla regione del cuore, sentendo con le mani il volume della regione del cuore, completamente rilasciate le braccia e i gomiti appoggiano a terra. Le braccia sono così rilasciate che le mani appoggiano solo col peso della mano sul cuore e sentiamo in tutto il volume del tronco la radianza delle mani, del volume del corpo. Potete provare anche a dormire in questa posizione, se volete aprire la regione del cuore. È un esercizio molto bello. Sentiamo con le mani il volume. Con con il torace, con la regione del cuore, sentiamo il calore radiante delle mani che la attraversa. Deglutiamo la saliva. Più volte. Bagniamo le labbra. Facciamo qualche respiro profondo dal naso. Muoviamo le dita delle mani, le dita dei piedi, i polsi, le caviglie. Pieghiamo le ginocchia, le lasciamo cadere da un lato, dall'altro. Ci stiriamo, sbandiamo liberamente. Sospiriamo. Ci stiracchiamo. Rimaniamo al suolo sul fianco destro quando vogliamo e osserviamo la sensazione nel corpo, il respiro, l'ambiente mentale. Sentiamo come ci sentiamo con totale spontaneità e naturalezza. Seduti, e ci frizioniamo in tutto il corpo, dalla sommità della testa, senza dimenticare nessuna parte, fino alla punta dei piedi. Con energia o con delicatezza, secondo di quello che sentiamo necessario. Braccia sotto le ascelle, i lati costali, sopra, sotto le braccia, tra le scapole, dietro, le reni, bene l'addome, ruotando intorno all'ombelico, il colon trasverso, verticale, linguine, i glutei, tutte le gambe, fino ai piedi. Frizioniamo bene le ginocchia, massaggiamo bene i piedi.